Castel Veneno, noi giovani all'epoca ne avevamo su fine le feste di ballo, ne avevamo su a ballare con le morose insomma, non era proprio morose, però ne correva in rio e ne avevamo su a ballare. Parlo del 36, 37, 38, perché nel 39 sono sotto soldato. Allora non ho visto nessuno a Castel di Veseno, no. Perché ho fatto 6 anni di militare, di guerra. E quando sono venuto, nel 45, no, l'8 settembre del 43, sono scampato perché era i tedeschi che mi cercava. E sono nati i partigiani a Reggio Emilia perché aveva una sorella sposata a Reggio Emilia. Sono a Reggio Emilia e su una montagna con i partigiani. E ho fatto 2 anni fino al 45 alla liberazione. Alla liberazione mi portava la bandona quando sono venuto a casa, che a Cagliano, il mese di settembre del 53. Del 53 sono ritornato alla Legione Straniera. In settembre 45 e 53 in settembre anche lì stavolta. Da legionario, sono venuto della legione straniera, ho fatto anche lì 6 anni. E Castel Veneno, cara, l'aveva completamente dimenticato. Però è il Gocchi in memoria, Castel Veneno, l'ho fatto lì. Guarda il Castel Veneno. Piero Garrello, Castel Veneno, anno di marca 1990, del Buon Consiglio e Castel Pietra, Castel Pietra. La maestra che è morta ultimamente qui a Cagliano, che ci portava su a fare le passeggiate, però il castello non era fatto come era, tutto diroccato, come c'era solamente una corte dove si andava dentro, che si giocava, si marrendava, si faceva anche la marenda. Ecco, poi dopo si veniva giù e si andava a casa. Voilà cos'è il castello di Veneno. Era la nostra passeggiata, se vuoi sapere. E basta. E si andava su a Morrosate. E si ballava, si parlava. E voilà. Il castello non lo considerava come fosse stata una casa vecchia. Noi non pensavamo di sapere da che parte veniva, chi era il proprietario, come per esempio Cagliano, che ci sono tante proprietà che sono andate a destra e a sinistra. Invece il castello è sempre stato nominato Castel Veneno, perché non è di Cagliano il castello, è di Besenello, fa parte del territorio di Besenello, non di Cagliano. E quando hanno cambiato i nomi del comune, che erano insieme, Cagliano e Besenello hanno messo il nome Veneno. Allora hanno messo anche il castello invece che Castel Besenello, Castel Veneno. Non è più come quelli di Cagliano, per esempio, lo vorrebbero loro. Vorrebbero darsi il nome Castel di Cagliano, e invece non esiste. Il Castel della Prea si chiamerà sempre Castel della Pietra, Castel Pietra. È lì che hanno ucciso mio padre, Castel Pietra. Sì, mio padre è stato ucciso lì, un Alfa Romeo, che l'ha spaccato in quattro. Vado per l'85, 18 giugno. Se viene il primo settembre, sono 20 anni che sono venuto dalla Svizzera con mia moglie. Perché amo il mio paese, Volano è il mio paese nativo, Caliano è il mio paese mio, perché qui ho fatto l'amore da giovane, è logico. Castelbezzeno, volevi saperlo? È l'amore su Castelbezzeno. Non lo marchi? Quando facevamo l'amore sul Castelbezzeno da giovani? Allora Castelbezzeno c'è delle storie d'amore su, che se quei ciepi, le siepi che sono là su potessero parlare. Io suonavo anche la chitarra e suonavo anche la chitarra io quando ero giovane. Qui all'Aquila eravamo io giocavo Lecker che giocava col violino, Lecker, uno, sono tutti morti, non c'è più nessuno. Bruno Vale, chi c'era ancora? Monegaglia, che è morto anche quello, sono tutti morti. Qui a Caliano resto io solo adesso, della mia epoca, non ce ne sono più. Bruno Battisti, Carlo Masera, tutta quella gente che sono del 18, 19, 20, 21, 22 e 23, Fausto Rosi c'è del 23 qui. Altrimenti sono tutti morti, non c'è più nessuno. Adesso la maestra che è morta, anche quella, del 19. All'Aquila si ballava, eravamo noi che suonavamo, ma era gratis. Non pagavano biglietti, niente no. Veniva lì all'Aquila, allora se bevevano qualche volta dovevano pagare le bibite, perché l'Aquila era i giochi de bocce, sti anni. E non c'era come adesso che sono tutti quelli che vengono dalla Germania, dall'Austria, che vanno lì perché costa caro lì all'Aquila. Una camera, sai quanto paghi adesso nella camera lì? 200 euro alla notte. Pagavano questo. Erano gratis. Noi ci divertiamo noi stessi con i nostri mezzi. Non ho mai potuto comprarmi la bicicletta da corsa io, da giovane. Non la sai? Eppure esiste, sai? Su non piangere, ninetta, se non ti posso sposare, perché mi trovo in boletta, tu mi devi scusare. Tu lo sai, Nina bella, che non si vive soltanto di amor, ma che la plancia e budella fanno la guerra tra loro. Sai che? No, una vecchia canzone che mia madre me l'ha insegnata. Questa canzone. Mia madre è morta del 29, allora capisci? Quanti anni è? E dopo che me ne ha insegnate, che ce li ho ancora in mente. Scarpette bianche, nastri di seta, le vesti attellate, camminavi così. Donna, donna, tu mi farai morire. Quella era mia madre che cantava così. Vedi che non l'ho mai dimenticato. da 9 anni che ne so ancora, per caso. E poi anche il Padre Nostro, in latino però, mica come lo dicono oggi. E l'Ave Maria tutto in latino, bisognava dirlo. E c'ho pochi ricordi, io vado di Castelbese, non mi dispiace. Io ho qualche ricordo perché, come vi dico, ricordo intanto una moraggiata a Castelbesino, per andare giù, fra i boschi, a destra, a sinistra, ma dentro il castello, che le muraglie lì non mi piacevano, perché erano diroccate. Adesso c'è la luce, hanno messo l'elettricità, è differente il caso. All'epoca non c'era quelle cose lì, i muri venivano giù, i sassi. I merletti, come li chiamate, i merletti di castello? Adesso l'hanno rifatti un po' arrangiato, un po' meglio, no? Perché quello lì è la parte, quel disegno che ho fatto lì, è dalla parte opposta, non da questa. Dove c'è il maso, le case dei contadini, sotto da questa parte, la parte contro Trebeseno. Quello lì è contro Trebeseno che ho preso giù il disegno. Però io ce l'ho là, guarda che là c'è Cagliano la mia fotografia. Se vai lì, chiudi la porta del balcone, dietro la porta del balcone c'è la mia fotografia col Castelbeseno. E c'è la filanda. Cagliano con la filanda. Sono io lì. Allora Zubli è... Tu lì quando tu resti 2 anni che tu parli più con ma fa parlare toujours francese avec elle. Je ne pouvais pas parler italien avec elle. Je devais parler francese. Allora in tanto santa j'ai sorti un dei libri e puis j'ai lì parce que autrement je l'oublie. E oublier une langue, c'est mal faire.